Si fanno morbidi tra le mie mani, richiami così vicini da non apparire più lontani. In una spirale verso il disastro, una girella nella bocca del golosastro. Uno strazio dopo Ignazio, buttami un mattone sulla testa, che questa nostalgia non passa mai. Mai e poi mai riproverò questi brividi, mai e poi mai ritroverò cose simili, mai e poi mai le elimini. Sto diventando come limiti. Mai e poi mai riproverò questi brividi, mai e poi mai ritroverò cose simili, ma e poi mai le elimini. Sto diventando come limiti. Va bene, ora c'è l'Eurostar, ma prima c'era Lima. Amavo gustarmelo in vetrina, scioccato. La stessa che una volta ho appannato col fiato. Quando ho esposto il calcio balilla calamitato. Erano gli anni dell'acciaio inox. Ogni bambino sullo spazzolino aveva il paperino. Chi non sa cos'è ne resta fuori. Chi non sa che aria è il freddo, lo sporco, accarezza i colori. Non capisce che siamo peggiorati tanto che te ne vergogni. Che migliorati sono solo bambole dei sogni. Che muori per trattori ed animali. Che il dolce forno può fare pure le torte nunziali. Ridi pure ma la situazione è tragica. Perché è convinto che la maglieria sia magica. Nessuna logica mi salva, sai, sono un fottuto nostalgico. Non mi riprenderò mai, mai, mai, mai.